America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito voci dei dimostranti ancora a Tripoli, in Libia. La situazione in questo momento però è di stallo. Ci sono dimostrazioni, ma lo scontro a fuoco per il momento è diminuito. Perché? Beh, perché le due fazioni si sono rese conto di non avere il potere l'una di sopraffare l'altra. In questo contesto si sta muovendo la comunità internazionale. Sentiamo Susan Rice, l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite. As President Obama said today, when a leader's only means of staying in power is to use mass violence against its own people. Ecco, sentiamo Susan Rice che riferisce quello che ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Si sono incontrati alla Casa Bianca. Obama ha detto: quando un leader perde la sua credibilità nei confronti del suo popolo e usa violenza estrema, ha cessato il suo mandato. Insieme Ban Ki-moon e Barack Obama hanno deciso di mobilitare la comunità internazionale, le agenzie delle Nazioni Unite preposte ad assistere profughi, feriti, e insomma a poter intervenire direttamente sul campo. Ma ci sono state altre azioni. Il Dipartimento del Tesoro americano ha congelato contanti e obbligazioni libiche per 30 miliardi di dollari. La notizia è di ieri, molto importante. Ci saranno in questo modo pressioni sul colonnello Gheddafi. C'è anche una mobilitazione delle forze navali aeree americane nel Mediterraneo. Questo per essere pronti, ha detto Carney, a qualunque opzione. C'è anche un'ipotesi, Carney, lo ricordo, il portavoce di Barack Obama, c'è anche un'ipotesi di consentire un esilio per Gheddafi. Sentiamo Hillary Clinton che ha parlato ieri a Ginevra. The people of Libya have made themselves clear. It is time for Gheddafi to go. Ecco, Hillary Clinton dice che ormai è chiaro che Gheddafi se ne deve andare. Questo tipo di pressione comporta una pressione enorme su Gheddafi. A questo punto il suo destino è chiaramente segnato. Ma su questa ipotesi militare che sembra prendere corpo come estrema opzione, sentiamo Tom Donnelly, American Enterprise Institute, che per primo ha suggerito un'ipotesi di questo genere. The moment is one that's finally balanced. It obviously is apparent that the Gheddafi regime is hanging on by a thread, and so an outside military effort would probably bring the situation to a conclusion quite rapidly. La tesi di Donnelly in sostanza è che gli insorti stanno vincendo e potranno vincere. Il problema, dice, è questione di tempo. Se dovesse esserci una resistenza molto forte da parte di Gheddafi, dei fedelissimi e dei mercenari che combattono al suo fianco, il prezzo in termini di sangue potrebbe essere altissimo, la destabilizzazione troppo elevata anche dal punto di vista dell'unità del paese. Dunque il suo suggerimento è quello che vi sia un intervento al più presto, immediato, di potenze straniere, Stati Uniti, Europa, paesi che hanno rapporti molto da vicino con la Libia, che si schierino al fianco degli insorti, mandando magari anche dei messaggi molto chiari a Gheddafi che il suo tempo è scaduto. Ecco, è una posizione ovviamente controversa. Ho poi chiesto a Donnelly se questo non fosse errato, se non fosse meglio per gli insorti di fare le cose da soli. It were better if it were done quickly to minimize the loss of life, and I think it's important for the United States and the West to at least express some effort and to make some effort to finally rid the world of Colonel Gheddafi. Donnelly insiste, dice di no, che il prezzo in termini di sangue appunto sarebbe troppo elevato, e fa un parallelo storico. Ricorda quando ci fu il colpo di Stato di Gheddafi, un colpo di Stato peraltro molto così burletta, nel senso che Gheddafi andò con 3-4 jeep, prese il controllo della stazione radio, del Palazzo del Re, di 2 o 3, 4, 5 posti nevralgici con l'aiuto di suoi commilitoni, e dichiararono che c'era stato il colpo di Stato. Non si sparò un colpo di fucile, non ci fu un morto, non ci fu nessuna resistenza da parte di nessuno. Il re Idris era all'estero in vacanza e dunque questa fu la rivoluzione di Gheddafi, fu una presa di potere facilissima. La domanda che molti si posero è come mai gli Stati Uniti allora non mandarono dalla base aerea che avevano alla Mellaha, la base militare Willisville, che era la più importante base aerea americana del Mediterraneo, quindi non una cosa secondaria, non mandarono ad esempio uno o due elicotteri che avrebbero scoraggiato questi ribelli e tutelato l'interesse del re. La risposta appunto che dà Donnelly in questa intervista è che gli americani allora commisero un errore di valutazione, pensavano che Gheddafi o comunque i militari avrebbero mantenuto il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e avrebbero semplicemente cambiato, diciamo così, marcia. Naturalmente non fu così, fu un errore e Donnelly sottolinea che è molto importante che questo errore non sia di nuovo commesso ora, inviando un segnale sbagliato agli insorti, un segnale dunque di passività. L'ultima questione infine che abbiamo trattato riguarda l'uscita di Gheddafi. Ho chiesto a Donnelly se non fosse stato meglio lasciar andare Gheddafi via e dunque raggiungere lo stesso obiettivo di una conclusione rapida di questo conflitto per risparmiare vite umane. I think it would really be better for the Libyans if they were able to conduct a judicial proceeding that would be helpful in setting a positive course for Libya for the future, sort of exorcising Colonel Gheddafi, and also to the degree that Gheddafi has played off internal factions in Libya, allow for reconciliation of those factions and tribes. La sua risposta è di nuovo abbastanza tranchant. Dal suo punto di vista, Gheddafi deve essere giudicato dal popolo libico. Deve essere giudicato dal popolo libico per mandare un segnale molto importante al resto del mondo arabo. La tesi di Donnelly è che le forze armate libiche sono molto fragili, non hanno la solidità delle forze armate egiziane. Ricorda quando ci fu la battaglia, la guerra ai confini con il Chad? Beh, dice, le forze libiche non brillarono certo per lucidità e per grande strategia tattica. E sono dunque queste preoccupazioni che si assommano alle altre e che consigliano di nuovo, secondo lui, un'azione congiunta per poter risolvere questa situazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito finalmente l'attesissimo video di Lady Gaga, Born This Way. Potete vederlo sul canale ufficiale della cantante su YouTube. E dunque in anteprima per voi, cari ascoltatori, Lady Gaga, Born This Way. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.